Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori e buonasera a Salvo Toscano. Buonasera. Salvo Toscano, giornalista, autore del libro La Camera Grassa, una dieta per i consigli regionali degli sprechi. Salvo Toscano è un giornalista che è caposervizio del gruppo editoriale che pubblica i mensili I Love Sicilia e il quotidiano lifesicilia.it, il più letto quotidiano di informazione via web in Sicilia, quindi conosce bene la realtà siciliana, ma in questo libro ci parla anche della realtà delle altre regioni d'Italia, Trentino Alto Adige compreso, una dieta per i consigli regionali degli sprechi. Perché questo libro, Salvo Toscano? Perché in questi anni i consigli regionali sono diventati un argomento di interesse dei media nazionali dopo che per anni se ne era parlato pochissimo. Purtroppo per loro lo sono diventati per tutti gli scandali, le inchieste, in particolare sui rimborsi ai gruppi che venivano erogati con una certa discrezionalità e che servivano poi alla fine, abbiamo scoperto in questi ultimi due anni, a pagare dalla tintura dei capelli alle sigarette, ai gratte vincere i nostri consiglieri regionali, e in questo modo si sono potuti accendere i riflettori su quella che io definisco appunto la Camera Grassa, che è questo insieme di consigli regionali italiani che per anni ha fagocitato risorse in maniera impressionante, costavano tutti insieme quanto la Camera dei Deputati, avevano più consiglieri di Senato e Camera messi insieme, qualcuno per fortuna se ne è accorto e negli ultimi anni sono stati messi un po' a dieta, diciamo che hanno cominciato una dieta. Ecco, perché non si trattava solo di scandali, di sprechi e di, diciamo così, ruberie piccole o grandi da parte di singoli consiglieri o rappresentanti delle regioni, ma poi si è scoperto che le regioni strutturalmente hanno delle spese particolarmente rilevanti, le spese per i consiglieri, le spese per la giunta, le spese per i presidenti, le spese per le sedi e così via, godendo di questa autonomia funzionale che nel caso delle regioni a statuto speciale diventa quasi un'indipendenza. E quindi sotto questo profilo le spese delle regioni sono particolarmente elevate, si parla per esempio della Sicilia di commessi da 4.000 euro al mese, di segretari della regione che prendono più del segretario generale dell'ONU, una cosa che è diffusa anche in Alto Adige, non solo in Sicilia, il presidente della regione guadagna più del presidente americano. Sì, adesso sui politici è stato messo un tetto perché il governo Monti ha fatto un decreto legge poi convertito che è stato in qualche modo poi tradotto in leggi regionali da tutte le regioni, e quindi sui consiglieri regionali, sui presidenti di regione, sugli assessori abbiamo dei tetti, anche se io racconto nel libro che poi in realtà siccome siamo in Italia certe volte succedono cose curiose come quei consiglieri regionali che in alcune regioni dopo la dieta, dopo i tagli, hanno in busta paga più di prima. Come è possibile? È possibile perché è stata in alcune regioni aumentata sensibilmente la parte di stipendio che è esentasse, perché i nostri consiglieri regionali, così come i parlamentari, non hanno come noi, diciamo, comuni mortali, uno stipendio lordo su cui pagano le tasse. Hanno una indennità che è tassabile più una cosiddetta diaria, che è un rimborso che è esentasse, che entra quindi liscia liscia in busta paga, e se questa aumenta ovviamente il netto che viene percepito dai consiglieri rimane tale e quale malgrado i tagli, oppure addirittura in alcuni casi aumenta. Poi tu accennavi ai dipendenti dei consigli, è chiaro che poi lì il caso più particolare è quello della regione siciliana con la sua assemblea regionale siciliana che è legata al Senato per il trattamento economico dei dipendenti, e vi do soltanto un dato tanto per capire di cosa stiamo parlando. Di recente l'assemblea regionale ha messo dei tetti massimi agli stipendi dei suoi dipendenti, per farvi capire di cosa parliamo, uno stenografo si è stabilito che non può guadagnare più di 208.000 euro lordi l'anno, quindi speriamo che riesca ad arrivare a fine mese. Ecco, sì, diciamo. Ecco, ma oltre a quello degli stipendi c'è anche il problema dei cosiddetti vitalizi, delle buone uscite, delle indennità di fine mandato, anche su questo fronte i consigli regionali non si sono fatti mancare nulla. Guarda, su questo io ho scritto proprio un capitolo del libro che si chiama Stipendiati a vita, quella dei vitalizi è una cosa clamorosa, cioè c'è gente che percepisce vitalizi anche dorati per aver fatto 5 anni di consigliatura e li ha cominciati a percepire in età, diciamo, da giovanotti, anche sotto i 60 anni. Adesso su questo le regioni finalmente, e devo dire che su questo io do atto alle regioni di non avere aspettato il governo Monti, molte lo avevano già fatto per conto loro, hanno eliminato questa cosa dei vitalizi, quindi i consiglieri in carica in quasi tutte le regioni, qualcuna ancora aspetta, però i consiglieri in carica non avranno i vitalizi, avranno una pensione con il sistema contributivo. C'è il problema però dei famosi diritti acquisiti, certo, perché noi tutti quelli che hanno maturato i vitalizi fino all'altro ieri dobbiamo continuare a pagarli e costano decine di milioni all'anno e continuiamo a pagare pensioni dorate a loro, alle loro vedove, ai loro figli, perché molte erano con la flessibilità, ed è un sistema che io spiego nel dettaglio. Certo. Il libro, che francamente farebbe fallire qualsiasi compagnia di assicurazione per come sono calcolate queste pensioni. Ecco, su questo fronte appunto è difficile modificare una situazione che è fatta di diritti acquisiti, quindi anche di ricorsi, poi la Corte dei Conti, il Consiglio di Stato, sì, tutte le varie istanze, pur di non cambiare. I famosi esodati, la storia dei diritti acquisiti, perché poi sai, alcuni diritti sono più acquisiti degli altri. Certo, soprattutto i politici. Ecco, però diciamo, non, questo libro è certamente un atto di accusa, però si conclude, anzi si svolge anche dando un barlume di speranza, che è il titolo poi dell'ultimo capitolo, nel senso, sì, che appunto già accennavi, il decreto Monti ha modificato qualcosa, ha ridotto il numero complessivo dei consiglieri regionali, anche se di poco, da poco più di 1000 a poco meno di 1000, possiamo dire, comunque qualcosa si sta facendo anche sul fronte delle retribuzioni, si sta facendo anche sul fronte delle auto blu per esempio, quindi delle spese accessorie. È un cammino però abbastanza lento, Salvo Toscano? Sì, io ti ringrazio perché alla fine del libro io devo dare atto, perché è giusto, che ci vuole l'onestà intellettuale, riconoscere che i consigli regionali hanno cominciato a tagliare, tra l'altro se lo facesse anche il Parlamento nazionale nella misura in cui hanno fatto i consigli regionali sarebbe una buona notizia, perché il Parlamento nazionale non l'ha fatto in maniera altrettanto incisiva. Hanno cominciato a tagliare, si è ridotto il numero dei consiglieri, si sono ridotti gli emolumenti, si sono ridotte una serie di spese accessorie, però ecco, la Camera grassa, magari meno grassa di prima, ma ancora può dimagrire. Faccio due esempi. Il primo, gli stipendi dei consiglieri. Ancora oggi, dopo i tagli, guadagnano al netto quasi tutti più di 8.000 euro al mese, cioè guadagnano molto più di un sindaco che ha responsabilità di governo, un mole di lavoro sicuramente maggiore di un consigliere regionale. E allora il governo Renzi, nella riforma costituzionale del Senato, ha previsto che i consiglieri non possano guadagnare più del sindaco del comune capoluogo, già solo con questa misura si risparmierebbero una trentina di milioni di euro all'anno. Poi c'è un'altra cosa, tu accennavi le regioni a statuto speciale, ecco, le regioni a statuto speciale col pretesto dell'autonomia non hanno tagliato il numero dei consiglieri, un paio di loro, altre tre lo hanno fatto, ma non nella misura in cui lo hanno fatto le regioni a statuto ordinario. Se si adeguassero le 5 regioni a statuto speciale a quelle a statuto ordinario, anche lì ci sarebbe da risparmiare una quindicina milioni di euro. Ecco, Salvo Toscano, appunto, nonostante il nome, è siciliano, lavora in Sicilia. Una parola sulla Sicilia, però bisogna spendere la Sicilia, di cui si è parlato tanto, si è stato anche nelle scorse settimane dei cambiamenti all'interno della giunta, ma è veramente cambiata anche la politica di spesa della giunta regionale, del consiglio regionale siciliano, oppure si ritiene ancora un Parlamento al di sopra delle parti, al di sopra del bene e del male? Ma guarda, diciamo che dei cambiamenti sono stati fatti, perché ormai per esempio all'Assemblea regionale siciliana i deputati, perché qui si chiamano deputati, noblesse oblige e non consiglieri, guadagnano tanto quanto gli altri consiglieri regionali italiani, quindi già su questo è stato fatto un passo avanti. Certo, possiamo ancora migliorare, si può ancora migliorare tanto. L'Assemblea regionale siciliana costa circa 150 milioni di euro all'anno, che è tantissimo, però è anche vero che paga le pensioni nomi dei dipendenti e dei deputati, cosa che negli altri consigli non accade. Quanto all'approccio verso la spesa pubblica, al di là poi del Parlamento c'è un problema qua in generale nella regione di utilizzo del denaro pubblico che per anni è servito a creare una sorta di gigantesco stipendificio quasi da socialismo reale. Alla fine adesso però il conto si sta presentando, la regione ha le casse praticamente prosciugate, ecco perché io spiego nel mio libro anche risparmiare qualche milione di euro, che in un bilancio come quello della regione siciliana chiaramente sono delle briciole, però anche le briciole in questo momento possono servire per fare qualcosa di buono, per essere spostate sullo sviluppo possibilmente, considerando che proprio l'altro giorno per pagare gli stipendi dei forestali, che in Sicilia sono più di 20.000, si sono tolti i soldi che servivano ad aiutare le imprese artigiane che qua chiudono e cadono come le mosche. Ecco, sì, con le briciole le buone massaie possono fare anche le torte, quindi pensiamo che si può partire anche dalle briciole, però ci vuole una certa logica. Forse possiamo concludere accennando al fatto che la Sicilia avrà i suoi sprechi, però non è la regione che pro capite spende di più. La regione che pro capite spende di più è la Val d'Aosta, più piccola, è 12.000 euro di spesa per 100 abitanti, è la più piccola regione a statuto speciale, stacca di gran lunga, scrive Salvo Toscano nel suo libro, le altre in questa graduatoria della spesa. Quindi possiamo consolarci, cioè, diciamo che dalle Alpi a Pantelleria, anzi a Lampedusa, che è ancora più a sud, la situazione è abbastanza simile, e il fatto che si operi per tagliare vuol dire che gli sprechi in passato ce n'erano. Possiamo concludere così, Salvo Toscano? Sì, senz'altro. Bisogna fare, io credo, un ragionamento un po' ampio anche sul regionalismo oggi, se ha senso ancora che esistano regioni così piccole che poi hanno ciascuno i loro costi istituzionali, e se ha senso mantenerle, ecco, se non è il caso di tarare i costi anche sulla popolazione delle regioni. Perché faccio un esempio che io cito nel libro: in Francia per esempio gli emolumenti dei consiglieri regionali sono calcolati sulla base della popolazione delle regioni, quindi regioni piccole il consigliere regionale prende 1.500 euro, qua da noi un consigliere regionale del Molise costa 11.100 certo. euro. E non ha senso appunto mettere in fondo sullo stesso piano il consigliere regionale del Molise, con tutta la dignità che può avere, con tutto il massimo rispetto, con regioni come il Lazio, però una regione che ha 300.000 certo. abitanti, la Lombardia ne ha 9 milioni e mezzo, qualcosa di diverso, di forse un po' diverso. Grazie a Salvo Toscano, lo ricordo, autore del libro La Camera Grassa, una dieta per i consigli regionali degli sprechi, edito da Rubettino, sono 132 pagine per 14 euro. Grazie anche a Carmelo Ravicella in regia, Luca Cremonese in redazione. L'appuntamento con Economia in Pagina per sabato prossimo.